Ad alta voce, Elia Shilton legge Fame di Knut Hamsun, traduzione di Ervinio Pocar. Martedì, sole e silenzio. Una giornata stupenda, radiosa. La neve era scomparsa, dappertutto vita e gioia, visi sereni, sorrisi e risate. Le fontane lanciavano i loro zampilli che ricadevano scintillando, mentre il sole li impregnava d'oro e il cielo di azzurro. Verso mezzogiorno lasciai l'alloggio nella Tomte Gate, dove abitavo ancora e dove mi godevo le 10 corone del commendatore. Andai in centro ed ero di ottimo umore e tutto il pomeriggio girellai per le strade più animate osservando la gente. Non erano ancora le 7 quando attraversai la piazza Sankt Olav e lanciai un'occhiata furtiva alle finestre del numero 2. Tra un'ora dovevo rivederla. In tutto quel tempo provai un'ansietà lieve e deliziosa. Che cosa sarebbe accaduto? Che cosa dovevo dirle quando sarebbe scesa nella strada? Buonasera, signorina, o sorridere soltanto? Decisi di limitarmi al sorriso. Si intende che l'avrei anche salutata rispettosamente. Mi allontanai di soppiatto, vergognandomi di essere arrivato troppo presto. Passeggiai un poco per la via Karl Johann senza mai perdere di vista l'orologio dell'università. Quando furono le 8, rifeci la via dell'università verso la piazza Sankt Olav. Pensai che potevo essere in ritardo di qualche minuto e allungai il passo. Il piede mi faceva molto male, ma per il resto stavo benone. Andai a mettermi vicino alla fontana per prender fiato. Aspettai a lungo guardando le finestre del numero 2. Lei non veniva. Pazienza. Avevo tempo, potevo aspettare, non avevo fretta. Forse era intervenuto qualche impedimento. Aspettavo. Non avevo mica sognato. Il mio primo incontro con lei non era stato forse un'immaginazione di quella notte febbrile? Perplesso ci pensavo e ripensavo e non ero ben sicuro di me. Udii alle mie spalle. Sentii benissimo quel colpetto di tosse e anche un passo leggero e vicino. Ma non mi voltai. Ero come affascinato dalla gradinata là davanti. Buonasera, sentii dire. Mi dimenticai di sorridere e lì per lì non mi levai neanche il cappello, tanto ero stupito che fosse venuta da quella parte. Avete aspettato molto? Domandò. Era un po' affannata, doveva aver camminato in fretta. No, affatto, sono appena venuto, risposi. D'altro canto, non sarebbe niente di male se avessi realmente aspettato un poco. Poi pensavo che veniste da un'altra parte. Ho accompagnato la mamma da nostri conoscenti. La mamma questa sera è invitata da loro. Ho capito, dissi, e ci avviamo. Guardia all'angolo della strada ci stava osservando. «Dove andiamo?» domandò lei fermandosi. Dove volete voi?» «No, non voglio essere io a decidere». Una pausa. Poi, tanto per dire qualche cosa, osservai. «Le vostre finestre, come vedo, sono buie». «Appunto», rispose vivacemente. «Anche la domestica a libera uscita. Sono sola in casa». E ci fermammo tutti e due a guardare le finestre del numero 2 come se non le avessimo mai viste. «Non potremmo salire in casa?» proposi. «Se credete, potrei rimanere tutto il tempo seduto davanti alla porta». Ma ora tremavo, ero pentito del mio ardire. «E se l'avessi offesa e se ne fosse andata e non rivederla mai più. L'abito miserabile che portavo, disperato, aspettavo la risposta. Non occorre affatto che stiate seduto vicino alla porta, replicò lei. Salimmo in casa. Il corridoio era buio e lei mi prese per mano e mi guidò. Non era necessario che stessi così zitto, ora, mi disse, potevo parlare tranquillamente. Entrammo e mentre faceva luce, non accese la lampada, ma una candela. Mentre dunque accendeva la candela, disse con un piccolo riso, non dovete guardarmi, mi vergogno, ma non lo farò più. Che cosa non farete più? Dio mio, non vi bacerò più. Mai più? Domandai e tutti e due ci mettemmo a ridere. Tesi le braccia verso di lei, ma ella si scansò e si fermò all'altro capo della tavola. Eravamo silenziosi e ci guardammo un istante. La candela ardeva fra me e lei. Mentre si scioglieva il velo e posava il cappello, i suoi occhi allegri mi guardavano e osservavano ogni mio movimento. Non voleva lasciarsi prendere. Mossi di nuovo all'attacco, ma inciampai nel tappeto e caddi. Il piede ferito si rifiutava di reggermi. Mi alzai con molta fatica. «Oh Dio, come siete arrossito!» esclamò. «Ma siete proprio maldestro!» «È vero!» E mi mossi ancora, zoppicando. «Ma siete zoppo?» «Credo di esserlo un pochino, ma poco poco. L'altra volta avevate male a un dito. Oggi avete male a un piede. E che sfortuna! È spaventevole! Un carro mi è venuto addosso alcuni giorni or sono. Siete andato sotto un carro. Di nuovo ubriaco. Ma come si fa a vivere così?» E minacciandomi con l'indice aggrottò la fronte. «Adesso possiamo sederci», soggiunse. «No, non vicino alla porta. Siete troppo timido. Qui, voi qui e io qui, ecco, così va bene. Ah, come sono noiosi questi uomini impacciati. Bisogna dire tutto e fare tutto da sé, non ti aiutano mai. Perché, per esempio, non mettete il braccio sulla spalliera della mia sedia? Potete farlo senz'altro. L'idea poteva venire anche a voi. Quando dico queste cose, spalancate gli occhi come se non credeste alle vostre orecchie. Ah sì, è proprio vero. L'ho osservato più volte. Ecco, anche adesso lo fate. Non mi verrete a contare che siete sempre così ingenuo. Salvo che talvolta vi manca il coraggio. Quella volta, per la strada, quando eravate ubriaco, siete stato piuttosto intraprendente. Mi avete inseguito fino a casa e tormentato con le vostre spiritosaggini. Signorina, state perdendo il libro. Sì, signorina, perdete il libro. Oh, eravate proprio antipatico. Io stavo a guardarla affascinato. Il cuore mi batteva con violenza. Il sangue bollente mi gonfiava le vene. Com'era bello stare in una casa, vicino a un'altra creatura. Un orologio ticchettava. Io potevo discorrere con una fanciulla giovane e fresca. Non ero più costretto a parlare da solo. «Perché non parlate?» «Come siete dolce!» esclamai. «Me ne sto qui tutto preso di voi. In questo momento, tutto preso di voi, che cosa dovrei fare? Siete la creatura più strana che... Ogni tanto i vostri occhi mandano baleni che non ho mai veduti. Sembrano fiori, che dico, no, forse non sembrano fiori, ma sono innamorato di voi». adesso lo sai. E sono senza speranze. Come ti chiami? Adesso me lo devi pur dire come ti chiami. Su via, dimmi come ti chiami. Pensa, quasi me ne dimenticavo. Ieri ci ho pensato tutto il giorno, cioè non proprio tutto il giorno, anzi, sono sicuro, non ho pensato tutto il giorno a te. Sai come ti ho chiamata? Ti ho chiamata Ilayali. Ti piace il nome? Ha un suono così aereo. Ilayali. Sì. È un nome straniero? Sì, cioè no, veramente no. Non mi dispiace. Dopo lunghe discussioni ci dicemmo i nostri nomi. Lei si sedette accanto a me sul divano e scostò la sedia con un piede e di nuovo discorremmo insieme. A questa sera ti sei fatto anche la barba, osservò. Nell'insieme oggi hai un aspetto migliore dell'altra volta, ma poco, soltanto poco migliore. Non vorrei che ti dessi delle arie. L'altra volta sei stato davvero antipatico e poi avevi al dito un'orribile benda e in quelle condizioni pretendevi ancora di condurmi non so dove a prendere un bicchiere di vino. No, no, no, grazie. Dunque non hai voluto venire con me solo perché ero così mal vestito? Domandai. Ma no, protestò chinando gli occhi. No, davvero, non per questo. Non ci pensai nemmeno. Credi forse che possa vivere e vestirmi come voglio? Non posso. Sono molto povero. Ella mi guardò. Davvero? Proprio così. Una pausa. In quanto a questo lo sono anch'io, concluse allegramente. Ogni sua parola mi inebriava, mi dava alla testa come una goccia di vino. E anche se in fondo non era che una delle tante ragazze di Cristiania, come loro maliziosa e intraprendente e come loro dotata di modi audaci e pungenti tipici delle ragazze di città, io ne ero estasiato quando mi guardava con la testa un po' reclinata sulla spalla e quando mi ascoltava e ne sentivo il respiro. Sai che, dissi, ma ora non devi arrabbiarti, ieri sera, andando a letto, ho steso questo braccio così per te, come se ci dovessi stare tu. E così mi sono addormentato. Davvero? Sei stato molto caro. Una pausa. Ma così, disse poi, sei capace di comportarti solo a distanza, perché altrimenti, credi che altrimenti non ne sarei capace? Appunto, non ti credo capace. Ah, oh, da me puoi aspettarti qualunque cosa, dissi con vanteria, e le cinsi la vita con un braccio. Proprio, disse lei, e non aggiunse altro. Mi seccava. Mi offendeva di essere considerato troppo timido e contegnoso. Mi fece ardito e le presi una mano, ma lei la ritirò piano piano e si scostò di un palmo. Rimasi scoraggiato e vergognoso e guardai la finestra. Ero davvero un poveraccio. Perché mi montavo la testa? Sarebbe stato ben diverso se l'avessi incontrata quando avevo ancora l'aspetto umano, ai bei tempi. E allora, e mi parve di essere annientato. Lo vedi? Disse. Non avevo ragione. Basta un po' di cipiglio e sei a terra. Basta che mi scosti un pochino e resti lì tutto impacciato. E rise di un riso malizioso con gli occhi chiusi, come non volesse essere guardata. Ma che dici? Sbottai. La vedremo, e le cinsi le spalle. Aveva smarrito la ragione, mi credeva proprio tanto inesperto, per Baco glielo avrei. Nessuno doveva mai pensare che fosse un buono a nulla. Diavolo di ragazza, se proprio bisognava arrivarci. Ma rimasi inerte. Lei se ne stava tranquilla e teneva ancora gli occhi chiusi. Nessuno dei due parlava. La strinsi con forza sul mio petto senza dire una parola. Sentivo il battito dei nostri cuori. Era come uno scalpitio di cavalli in corsa. E la baciai. Non capivo più quel che facevo e dicevo sciocchezze. Lei rideva. Io le mormoravo sulle labbra parole carezzevoli, le accarezzavo le guance e continuavo a baciarla. Le slacciai un bottone della camicetta o due, le vidi il seno bianco e pieno che spuntava dai merletti come un inatteso miracolo. «Posso?» dissi e feci per sbottonare tutto, ma ero troppo agitato e non riuscivo a slacciare gli ultimi bottoni. «Posso? Un poco soltanto!» Mi cinse il collo con un braccio, lentamente, teneramente. Dalle narici rosee e tremanti le usciva un alito caldo che mi inondava il viso. Con l'altra mano, ella stessa si sciolse la camicetta, un bottone dopo l'altro. Sorrideva, imbarazzata, e mi guardava. Mi guardava. Non vedevo che aveva paura. Scioglieva i nastri, si slacciava il busto e aveva tanta paura. E io con le mie mani rozze palpavo quei bottoni, quei nastri. Per distogliere la mia attenzione da quel che facevo, mi passò la sinistra sulle spalle dicendo: «Quanti capelli ti sono caduti?» «Già», risposi, tendendo le labbra per baciarle il seno. Ormai era tutta discinta. Ma a un tratto si riscosse. Sentì probabilmente di essere andata troppo oltre e, chiudendo la camicetta con le mani, si sollevò un tantino. Per nascondere l'imbarazzo, riprese a parlare dei capelli che mi erano caduti sulle spalle. «Ma come mai ti cadono tanti capelli?» «Non so, forse bevi troppo e forse anche...» «No, non lo dico, dovresti vergognarti. Da te non me lo sarei aspettato, così giovane e perdi tanti capelli. Adesso però mi racconterai come vivi. Naturalmente fai una vita orribile, immagino, ma devi dire soltanto la verità, senza vergogna. Del resto ti si vede negli occhi quando nascondi qualche cosa. Dunque, racconta.» Ah, com'ero stanco. Quanto avrei preferito star lì in silenzio, a guardarla piuttosto che comportarmi così e continuare a tentare disperatamente. Non ero più capace di nulla, ero ridotto un cencio. «Su, incomincia», mi incoraggiò. E io obbedì e le raccontai tutto. E soltanto la verità. Non caricai le tinte, dissi le cose come erano. Non avevo nessuna intenzione di destare la sua compassione. Confessai anche che una sera avevo rubato 5 corone. Lei stava a sentire, a bocca aperta, pallida e angosciata, con un grande smarrimento negli occhi lucidi. Tentai di rimediare, di cancellare la triste impressione che doveva aver fatto la mia confessione. Mi feci forza, ma ora è tutto superato, non credo possibile una ricaduta. Adesso sono al sicuro. Era molto perplessa. «Ah, mio Dio», disse senza aggiungere altro, e ripeté poi quelle parole lentamente a intervalli. «Ah, mio Dio, io...» Ripresi a scherzare, le feci il solletico, la trassi a me. Si era riabbottonata la camicetta e io ne ero indispettito. Perché aveva fatto così? Valevo meno ora che sapeva come non fossero le mie leggerezze a farmi cadere i capelli. Le sarei piaciuto di più se mi fossi spacciato per un uomo dissoluto. Niente sciocchezze ora, andare diritti alla meta, ecco il punto. E allora sapevo anch'io fare il mio dovere. Dovetti dunque ricominciare da capo. La rovesciai sul divano, lei reagì, ma molto debolmente, e sgranò gli occhi. «Che cosa vuoi?» disse. «Cosa voglio?» «No! No, no! Ma sì, sì! No! No!» gridò e aggiunse questa offesa. «Tu sei pazzo!» Mi fermai, mio malgrado, e osservai, non lo dice sul serio, invece sì, sei così strano. E l'altra mattina quando mi sei venuto dietro, non eri ubriaco? No, ma non ero neanche affamato. Avevo appena mangiato. Ah, tanto peggio. Avresti preferito che fossi ubriaco? Sì, mi fai tanta paura. Dio mio, non puoi lasciarmi stare. Pensavo, no, non posso lasciarti stare. Ci perdo troppo. Ora basta, poche storie. A un'ora così tarda sul divano. Possibile che le donne riescano sempre a trovare mille scuse e a certe ore, come se non avessi saputo che era tutta timidezza, tutta modestia. Non ero mica alle prime armi. Basta, adesso finiamola. Lei si difendeva con energia, con troppa energia. Ora non era più timidezza. Con finta sbadataggine rovesciai la candela. Rimanemmo al buio. Resisteva disperatamente e incominciò persino a piagnucolare. No, non questo, non questo. Baciami il petto se vuoi. Caro, caro. Mi arrestai subito. Le sue parole erano così imploranti, piene di terrore, che mi tolsero ogni energia. Ne rimasi schiantato. Credeva di offrirmi un compenso dandomi il seno da baciare. Che ingenuità bella e deliziosa. Mi sarei inginocchiato davanti a lei. Cara, cara, esclamai confuso, non capisco davvero. Che gioco? Lei si alzò e riaccese la candela con le mani tremanti. Io stavo reclinato sul divano e non muovevo un dito. Che avrebbe fatto ora? Mi sentivo a disagio. Guardò la pendola e sobbalzò. La donna sta per rientrare, esclamò. Erano le prime parole che diceva da quando era in piedi. Capii l'allusione e mi alzai. Ella prese il mantello, fece per indossarlo, ma cambiò idea, lo posò e si avvicinò al caminetto. Era pallida e sempre più inquieta. Perché non sembrasse che mi metteva alla porta, domandai: «Tuo padre non era ufficiale?» E mi preparai a uscire. «Sì, era stato ufficiale. Come lo sapevo?» «Non lo sapevo, era stata così un'idea. Molto strano. Oh sì, ma dissi che in certi luoghi mi venivano intuizioni strane. Anche queste facevano parte della mia pazzia.» Lei mi guardò stupita, ma non rispose. Capivo che la tormentavo con la mia presenza e volevo congedarmi in fretta. Mi avvicinai alla porta. Mi avrebbe baciato ancora. Non mi avrebbe neanche stretto la mano. E mi fermai in attesa. «Volete andar via davvero?» domandò, sempre ferma davanti al caminetto. Io non risposi. Ero umiliato e confuso e la guardavo senza dire una parola. Quante cose avevo distrutto. A quanto pareva non le importava proprio niente che me ne andassi. L'avevo perduta per sempre e andavo cercando qualcosa da dirle nel momento del commiato. Parole gravi e profonde che la colpissero e forse anche la ferissero un po'. Ma invece di mostrarmi freddo e sdegnoso come avrei voluto, mi sentivo ferito e umiliato e riuscii a dire solo banalità e sciocchezze senza trovare nulla che potesse commuoverla. Tutto quello che dicevo era retorico e meschino. «Perché non mi diceva schiettamente di andarmene per la mia strada?» domandai. «Perché aver soggezione? Invece di avvertirmi che la donna di servizio stava per ritornare, avrebbe potuto dirmi semplicemente che era ora che mi levassi dai piedi. Poteva dire: devo andare a prendere la mamma e non voglio essere accompagnata. Davvero non ci aveva pensato? Impossibile, me ne ero pure accorto. Non era poi tanto difficile capire. Già il modo in cui aveva preso il mantello e lo aveva poi posato era bastato per farmi capire tutto. Talvolta avevo di queste intuizioni E forse la pazzia non c'entrava neanche. Dio mio, perdonatemi quella parola, mi è scappata, esclamò. Ma ancora stava ferma e non veniva verso di me. Io mi ostinai e continuai a parlare. Parlavo senza pause, pur avendo la penosa impressione che la annoiavo e che le mie parole non la colpivano affatto, eppure non la smettevo. In fondo avevo un'anima piuttosto sensibile, osservai, e non per questo era necessario che fossi pazzo. Ci sono certe nature che si addolorano per delle sciocchezze e possono morire per una parola aspra, e lasciai intravedere che io avevo una natura così. Ecco, le cose stanno in questo modo. La mia povertà ha acuito in me certe facoltà al punto che talvolta mi provocano vere sofferenze, sì, vi assicuro, vere sofferenze, purtroppo. Ma anche questa sensibilità ha i suoi vantaggi. In certe situazioni mi è di aiuto. Il povero intelligente è un osservatore assai più sottile che non il ricco intelligente. A ogni passo che fa, il povero si guarda intorno e tende l'orecchio diffidente a tutte le parole di coloro che incontra. Ogni suo passo presenta, per così dire, un compito, una fatica ai suoi pensieri e sentimenti. Egli ha l'udito acuto e sensibile, è esperto e ha l'anima segnata di cicatrici. E continuai a discorrere a lungo delle cicatrici che avevo nell'anima, e quanto più parlavo tanto più lei si inquietava, finché invocò Dio disperatamente torcendosi le mani. Capivo benissimo che la martoriavo, avrei voluto desistere ma non potevo. Infine mi parve di averle detto per sommi capi tutto quanto mi sembrava necessario. Il suo sguardo sgomento mi scosse ed esclamai: adesso vado, non vedete che stringo già la maniglia? Addio, ehi, dico, potreste anche rispondere quando vi dico addio due volte, sto per andarmene. Non vi chiedo neanche il permesso di incontrarvi ancora, per voi sarebbe una pena. Ditemi soltanto perché non mi avete lasciato in pace. Che cosa vi ho fatto? Non sono stato io a venirvi fra i piedi, vero? Perché vi voltate ora dall'altra parte come se non mi conosceste più? Ora mi avete straziato e tormentato, mi avete reso più povero di prima. Santo Dio, sono forse pazzo? No, certo. E se ci volete pensare, capireste anche voi che in questo momento non mi manca nulla. Su, venite a stringermi la mano, o volete permettere che venga io da voi? Sì, non voglio farvi alcun male, vorrei soltanto inginocchiarmi un istante, inginocchiarmi in terra davanti a voi. Posso? Allora no, non lo farò. Vedo che avete paura. Non lo farò, no, non lo farò, capito? Santo cielo, perché tanto spavento? Io sto qui fermo, non mi muovo, volevo soltanto inginocchiarmi un minuto sul tappeto, esattamente su quella macchia rossa davanti ai vostri piedi. Ma voi avete avuto paura, ve l'ho letto negli occhi, avete avuto paura, perciò sono stato fermo. Quando ve ne ho chiesto il permesso, non ho fatto un passo, non è vero forse? Sono stato immobile, come sto fermo adesso, mentre vi indico il posto dove avrei voluto inginocchiarmi, là, su quella rosa rossa del tappeto. No, non la indico nemmeno col dito, nemmeno questo, non lo faccio perché non voglio spaventarvi. Rivolgo là soltanto la testa e lo sguardo. Così, e voi sapete benissimo a quale rosa alludo. Ma non volete permettermi di inginocchiarmi là. Avete paura di me e non avete neanche il coraggio di avvicinarvi. Non capisco come possa venirvi in mente di credermi pazzo. Vero che non lo credete più? Una volta d'estate, molto tempo fa, allora sì, ero pazzo. Avevo lavorato troppo e quando avevo troppe cose da pensare dimenticavo di andare a far colazione. Tutti i giorni non avrei dovuto dimenticarmene, eppure me ne dimenticavo. Dio mi è testimone che è vero, mi colpisca subito se dico una menzogna. Vedete dunque che mi fate torto e non lo facevo per necessità. Io ho credito, molto credito nei ristoranti di Ingebret e Gravesen. Spesso avevo anche molto denaro in tasca, eppure non compravo da mangiare. Me ne dimenticavo. Mi ascoltate? Non dite nulla, non rispondete, non vi scostate dal camminetto. Aspettate soltanto che me ne vada. Ella si mosse rapidamente e venne a porgermi la mano. La guardai con molta diffidenza. Era sincera o lo faceva soltanto per sbarazzarsi di me? Mi buttò le braccia al collo. Aveva gli occhi pieni di lacrime. Io la guardavo. Mi offrì le labbra. Non riuscivo a crederle. Certamente faceva un sacrificio pur di farla finita. Pronunciò qualche parola. Mi parve che dicesse: ti voglio bene lo stesso. Lo disse molto piano e confusamente. Forse non avevo neanche udito bene. Forse non aveva neanche detto proprio quelle parole. Ma mi strinse con tutte e due le braccia così forte per un istante. Si sollevò persino sulla punta dei piedi per arrivare a me e così rimase. Temetti che quella tenerezza le costasse uno sforzo e dissi soltanto: come sei bella adesso. Non dissi altro. Indietreggiai, spalancai la porta e uscii camminando all'indietro. E lei restò dov'era. Elia Shilton ha letto Fame di Knut Hamsun, traduzione di Erminio Pocar. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.